get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera e ben ritrovate. Quella che state ascoltando sarà la nostra 241esima trasmissione e noi siamo il coordinamento Lesbiche Romane. E questo è il consueto appuntamento nell'etere attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz. E a proposito di liberi microfoni, vi ricordiamo che questa radio non trasmette pubblicità e vive grazie ai contributi volontari delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Perciò è sempre il momento giusto per contribuire al sostentamento di Radio Onda Rossa. Puoi farlo compilando un bollettino di conto corrente postale, quindi prendete nota del numero conto corrente 61804001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185 Roma, e ricordate di inserire nella causale sottoscrizione. Bene, oggi in radio siamo Caterina, che vi sta parlando, e con me ci sono Lucilla e Emanuela. Per la trasmissione di oggi abbiamo pensato di proporvi alcune riflessioni che ci sono venute spontanee dopo il continuo martellamento dell'ultimo mese, nel quale sembrava quasi che Avetrana fosse diventata il centro del mondo. Abbiamo deciso di rendervi partecipi dei nostri ragionamenti non tanto perché l'episodio di Saria Scazzi non sia rilevante, tragico o aberrante, ma per due ragioni fondamentali che ci hanno spinto a riflettere. Uno è la consapevolezza che la violenza sulle donne non è certo una novità, almeno per noi, e per di più l'una non è mai purtroppo più grave di un'altra, sono tutte deprecabili. Due, la sgradevole sensazione di essere, ascoltando l'informazione pubblica, diventati tutte e tutte parti essenziali e parzialmente inconsapevoli di un nascosto ingranaggio che ci stava manipolando nostro malgrado. Da qui la nostra presa in esame di un servizio pubblico che a nostro avviso è sempre meno pubblico, non perché non sia gratuito e facilmente fruibile, ma perché utile al sistema, in grado di pilotare stati d'animo, pensieri, emozioni, ma, cosa ancora più grave, in grado di condurre per mano anche le forme di ribellione, il dissenso, lo scontento e lo sdegno. Un servizio pubblico funzionale al sistema, capace di prevedere anche la capacità di saturazione dell'ascolto, che non sovraccarica troppo chi ascolta e che al bisogno trova un altro scoop che catturi l'attenzione e via, così si ricomincia il giro. Ma per adesso fermiamoci qui, quindi vi ricordo solo che ci piacerebbe anche avere qualche vostro commento al riguardo, per cui ecco il nostro numero di cellulare sul quale scrivere gli sms, 339-853-6270. Ricordo anche che questo cellulare resterà attivo fino alle ore 22, quindi fino alla fine di questa trasmissione. Nel corso delle nostre trasmissioni noi mettiamo sempre dei brani musicali che hanno come interpreti, per una scelta ragionata e fortemente voluta, esclusivamente solo donne. E allora cominciamo subito ascoltando una canzone attraverso la voce di Giuni Russo con il brano Amala. Hamala, hamala, hamala, hamala. Bene, e allora partiamo con quello che è il pezzo forte della nostra trasmissione di oggi, e quindi quello che attiene alla manipolazione dei media. Da sempre l'informazione condiziona la vita di ognuna e ognuno di noi. Nel tempo i media ci hanno proposto casi efferati di violenze, domestiche e non, suscitando in noi sensazioni di vario genere, che vanno dallo sconforto, alla paura, alla rabbia fino all'odio, passando per varie sfumature di sentimenti più o meno socialmente accettabili. Molti di questi episodi ci sfiorano, lasciandoci semplicemente dei ricordi vaghi e confusi ed una intollerabile sensazione di malessere. Altri restano impressi nella nostra mente a causa della loro violenza, della drammaticità con la quale ci vengono proposti, altri ancora diventano addirittura casi emblematici che racchiudono nel loro orrore la concentrazione di tutti i mali possibili e immaginabili. Chi non ricorda per esempio la vicenda di Cogne, oppure l'assassinio di Garlasco, oppure ancora quello di Perugia, o la strage di Novi Ligure? Ultimo della serie è il caso di Avetrana, giocato tutto all'interno di una famiglia cosiddetta normale, che ha scosso una provincia sonnolenta e che tiene banco su ogni foglio di informazione, presumibilmente anche su quelli della parrocchia, su ogni televisione nazionale e locale. A rendere ancora più drammatica e ricca di pathos una storia di violenza, come purtroppo ce ne sono tante, è la fortunata concomitanza sulla scena di vari tipi umani. La vittima, giovanissima. Lo zio, semi-analfabeta dall'aspetto mite. La cugina, giovane e scaltra, metà virago, metà velina, col sogno di aprire in quel paesone triste e senza prospettive un centro di bellezza, quasi a sottendere che gli orrori delle nostre vite si possano nascondere con facilità dietro un maquillage ben fatto. L'atteggiamento dei protagonisti della vicenda, l'orrenda morbosità di quelli che si recano sul posto in un triste tour dell'orrore per guadagnare l'ormai consueto scatto col telefonino, il fiume di parole al vento, l'esercito di esperti commentatori, gli avvocati avidi, i parenti e i testimoni prezzolati, ci rimandano una pochezza umana e un'immagine decisamente oscena della nostra società. Una società in cui la pietas, nel senso della pietà appunto, fatica a trovare posto tra un'intervista e l'altra, fra una ripresa di profilo, che così veniamo meglio per la televisione, e un "ma poi lo scrivi il mio nome sul giornale?" Una società incapace di trovare dentro di sé la forza di vivere la propria vita senza la mediazione sensazionalistica del mezzo televisivo, incapace di affermare la propria esistenza se questa non passa sulle pagine di un giornale. Una società triste, in cui davvero sembra essersi perso il senso reale delle cose, in cui le case diventano plastici per Porta a Porta, e solo così sembrano assumere la solidità di quelle reali. Solo così, attraverso i muri di cartone, con le macchinine giocattolo che si muovono dal garage degli orrori al pozzo degli orrori, in una fiera truculenta e spasmodica di insinuazioni, deduzioni, maledizioni e morbosità. Sembra la cifra stilistica di questo paese, in cui politiche e istituzioni vanno a braccetto con escort e ruffiani, in cui i media lisciano il potere, in cui non esiste la mezza misura tra i servizi sulle mutande più di moda in estate e la violenza gridata e reiterata quotidianamente, come fosse una pillola da prendere per una terapia salvavita. il potere straordinario dei mezzi di comunicazione sta tutto nella capacità di guidare le passioni e i sentimenti di chi di quella comunicazione è destinatario, e si gioca sulla sottile ambiguità tra la necessità di informare e quella di tenere in vita il più a lungo possibile una notizia per fare audience, incassi pubblicitari o semplicemente per stornare l'attenzione da altro. Pratica questa ben nota ai funzionari dell'impero, che invitavano il popolo al Colosseo per i giochi dei gladiatori. Oggi che il Colosseo è chiuso, quale altra straordinaria arena ci resta se non quella televisiva? Il mezzo c'è, arriva in tutte le case, spesso non si paga neanche il biglietto, visti gli introiti del canone, pubblicità e quant'altro. C'è solo da scegliere lo spettacolo, stabilire quale sarà la notizia del giorno, quella con maggiore appeal, quella che bucherà lo schermo, che ci permetterà maratone estenuanti che rimbalzano di canale in canale, di trasmissione in trasmissione, di conduttore in conduttore, e tutti lì a dire che per ora basta, ci dobbiamo interrogare sull'uso che facciamo del mezzo. Ecco, appunto, interroghiamoci. E ora, per spezzare un attimino, e possiamo ascoltare il brano e musicale di Giusy Ferreri, che si intitola Il Party. Soltanto una cosa, perché siccome è arrivato un messaggio, ma no, beh, li leggiamo tutti dopo, mi sa che è meglio. Comunque ringraziamo chi ci ha scritto il messaggio. Sì, grazie. Dove esiste solo amore, si ama, si fa l'amore. intanto, lasciateci dire a noi che siamo in radio che la radio è un mezzo che consente un maggiore spazio di libertà. Non si sta incollati a assorbire immagini e parole associate, e questo permette di dare spazio all'immaginazione, di lasciare sedimentare le informazioni e i concetti veicolati. D'altro canto, è pur vero che il mezzo in sé non è fondamentale, ma l'uso che se ne fa lo rende più o meno manipolatorio. Questo aspetto si evince chiaramente dalla ricerca di Ilvo Diamanti, pubblicata sulla Repubblica l'11 ottobre scorso. I dati relativi alla criminalità italiana sono in linea con quelli europei, anzi gli episodi di violenza nel nostro paese sono addirittura numericamente inferiori, ma vengono trattati dalla stampa e dalla televisione nazionali in maniera ipertrofica. Citiamo dalla ricerca di Diamanti: come diceva Manuela, citiamo dalla ricerca di Diamanti, dalle sue parole proprio. Lo confermano i dati dell'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, IDEMOS, Osservatorio di Pavia e Unipolis. Visto che nel primo semestre del 2010 il TG1 ha dedicato ai fatti criminali 431 notizie, circa l'11% di quelle presentate nell'edizione di prima serata. Uno spazio maggiore rispetto a quello riservato allo stesso tipo di notizie dagli altri principali notiziari pubblici europei. In dettaglio, l'8% viene detto all'interno della BBC, il 4% dalla TVE, che sarebbe spagnola, e France 2 il 2%. Così come Ard Germania. Va precisato per chiarezza che il tasso di crimini in Italia non è superiore a quello degli altri paesi europei considerati, semmai un po' più basso. E aggiungiamo per correttezza che il TG5 mostra un andamento pressoché identico al TG1. Infatti lo sappiamo bene che ormai il TG5 e il TG1 praticamente gli stessi si equivalgono, infatti uno evita proprio di guardarli, esatto. L'uno e l'altro. Esatto. Sono stati anche multati. Inoltre, Diamanti ci fa sapere come negli altri paesi europei le notizie, oltre ad avere una vita limitata nel tempo, vengano tematizzate, ad esempio, attraverso una serie di approfondimenti che le contestualizzano, affinché possano tornare utili per fare un'analisi approfondita delle tematiche sociali ad esse collegate. Questo nel nostro paese non avviene. La notizia, meglio se violenta o comunque scabrosa, viene reiterata per giorni e giorni, rilanciata e continuamente aggiornata con nuovi particolari, spesso procurati da fughe di notizie, che servono a tenere alta l'attenzione senza che l'interesse generale si spinga ad intravedere quali sono le condizioni che hanno portato a quel tipo di crimine o di comportamento irregolare. Manca l'analisi di fondo e qualora questa venga superficialmente effettuata, di solito non contribuisce a sciogliere i nodi della questione trattata, ma piuttosto a far nascere nuove congetture di tipo sensazionalistico. Inutile ricordare qua i vari talk show pomeridiani e serali che hanno parlato in lungo e in largo del caso di Avetrana, ma tutti e in tutti i canali, sia quelli nazionali che quelli delle TV commerciali. Diamanti parla infatti di serializzazione e drammatizzazione. Si tratta in genere di casi comuni, omicidi, stupri, spesso maturati in ambienti familiari e per questo resi più appetibili all'attenzione del grande pubblico. Sono eventi che potrebbero capitare a chiunque, ma il fatto che siano capitati ad altri e che siano così a portata di mano grazie al lavoro di TV e giornali ci permette di viverli quasi in prima persona, ma al riparo da ogni possibile danno reale. È la frenesia orrenda di un paese che si nutre di prodotti come il Grande Fratello, che criminalizza certi comportamenti eticamente scorretti solo in base al soggetto che li compie. Per cui, ad esempio, è vergognoso e illegale avere rapporti con minori, ma se si ricoprono cariche istituzionali la cosa cambia. È ignobile avere rapporti prezzolati con persone trans, ma se si è semplici consiglieri comunali si ha diritto ad un trattamento più leggero di quello che ci spetta se si è governatori di regione, e via discorrendo, in un contesto caratterizzato da una forte amplificazione delle notizie da parte dei media. La domanda che ci dobbiamo porre è evidentemente una, e cioè: cosa rende una notizia più appetibile rispetto ad un'altra? Perché mai alcuni omicidi o alcuni stupri o alcune catastrofi naturali sono più seguite, più trattate, più rappresentate di altre? Chi decide la scala di importanza di una notizia? Chi decide quando quella stessa notizia può catturare maggiormente l'attenzione e quando no? In estate, le notizie di stupri e femminicidi riempiono le pagine dei giornali, eppure noi sappiamo che le violenze nei confronti delle donne si sviluppano lungo tutto l'arco dell'anno, senza interruzione. Ma a meno che non siano particolarmente sensazionali, spesso guadagnano solo alcuni titoli di spalla o comunque sono relegate nelle pagine interne. Solitamente in questi casi non arrivano nemmeno in televisione. Le notizie sull'assassinio della piccola Sara sono state immediatamente scalzate dalla nuova bufera scoppiata su Silvio Berlusconi e la cubista Rubi. Intere prime pagine di giornali e titoli televisivi hanno ricacciato sullo sfondo l'orrore di Avetrana per lasciare spazio alla frenesia gossipara sulle serate del presidente, che comunque danno la misura di quale sia il dato culturale di un uomo che, per nostra sfortuna, è uno dei massimi rappresentanti delle istituzioni di questo paese. Ma contestualmente la notizia del ritrovamento su alcuni voli diretti negli USA di materiale esplosivo e quindi di un possibile rifiorire di gravissimi attentati terroristici non ha avuto il consueto risalto, almeno da noi, proprio perché l'attenzione del grande pubblico è stata catalizzata sulle pruriginose questioni del Presidente del Consiglio. E ancora, cosa dire degli eventi criminosi e non utilizzati fino allo sfinimento per far passare in secondo piano, quando non addirittura nasconderle, altre importanti notizie che riguardano la vita dell'intera comunità? In compenso, alcune affermazioni, pesanti come macigni, passano in sordina, enunciate come semplici constatazioni, dati di fatto, strategie e innocue modalità comportamentali. Le realtà prese in esame diventano in tutto e per tutto impossibili da modificare, quasi normali. Ricordate, ad esempio, l'utilizzatore finale? Le situazioni troppo imbarazzanti diventano improvvisamente giustificabili. Meglio andare dietro alle ragazze che essere gay. Lo scollamento tra vita reale e profitto di pochi diventa per lo più assolutamente non dipendente da chi sta gestendo il potere. Ricordate gli ultimatum di Marchionne e gli attacchi al sindacato che passa alla fine come unico responsabile del disastro produttivo perché dimostra poca responsabilità? Ma su tutto questo non c'è alcun tipo di approfondimento, nessuna arena, nessun plastico. L'intento è fin troppo palese. Si spinge una notizia che susciti sensazione per stornare l'attenzione da altri elementi che, se debitamente considerati, potrebbero suscitare interrogativi e analisi in qualche misura pericolosi per il normale andamento della situazione. È un vecchio stratagemma del potere che da noi sembra essersi elevato a sistema. Ma dobbiamo considerare anche che, in un paese in cui tutti si lamentano ma nessuno si ribella, il dato che balza allo sguardo è la responsabilità oggettiva di chi si mette nella posizione di farsi manipolare dal trucco. Esiste quindi una sorta di incapacità da parte nostra, o forse anche di non volontà, di aprire gli occhi e guardare oltre. Per molti noi praticamente a un certo punto ci si è oscurato tutto, quindi abbiamo dovuto in fretta e furia ripristinare tutto quanto. Ci scusiamo per l'interruzione, cerchiamo a questo punto di riprendere il filo del discorso. Sappiate che avevamo parlato del Presidente del Consiglio, sì, e no, dell'oscuramento è avvenuto. Ed è saltato tutto quel che l'innominato. Sì. Adesso diremo solo l'innominato, l'innominabile. Lui. Non lo nomineremo più. Se no salta tutto. Comunque, Emanuele, ti riconviene a me dal capoverso quello iniziale, che almeno quindi riprendere. Sì, esatto, ok, certo. Facciamo dunque fin... dicevamo, okay, dicevamo. Dicevamo. Che appunto è un vecchio stratagemma del potere che da noi sembra essersi elevato a sistema. Ma dobbiamo considerare anche che, in un paese in cui tutti si lamentano ma nessuno si ribella, il dato che balza allo sguardo è la responsabilità oggettiva di chi si mette nella posizione di farsi manipolare dal trucco. Esiste quindi una sorta di incapacità da parte nostra, o forse anche di non volontà, di aprire gli occhi e guardare oltre. Per molti l'immobilità resta la strategia più diffusa, il disinteresse fa credere di essere al di fuori, il non schierarsi dall'illusione di essere altro da ciò che viene prospettato come così poco accettabile. Il chiamarsi fuori, il fare altro, il non coinvolgersi, mette a tacere la coscienza, fa sentire a posto, fa credere con ignorante e superba presunzione di non avere alcuna responsabilità. Il limitarsi ad ascoltare, ad essere informati, a sentenziare sulle notizie scelte apposta per noi, fa credere di non determinare alcuna situazione, fa pensare che il nostro non agire sia sufficiente, fa ritenere che il non fare nulla basti ad essere migliori. Ma questo è ciò che vogliono. Ognuno ha la responsabilità del non fare nulla, che sostanzialmente è equiparabile all'atto che si critica. E leggendo questa cosa, e concedetemela una piccola parentesi, vai, mi veniva a mente la mitica frase della canzone di De André: per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Esatto. È una piccola parentesi, ma ci voleva. Va bene, anche per riprendersi un attimo dallo spavento, pensavamo sì, di aver rotto tutto. Vai con il piccolo stacco musicale. E quindi, per concludere, ciò è probabilmente dovuto ad una condizione di svuotamento delle nostre vite, a spazi di socialità sempre più ridotti, alle piazze reali sostituite dalle piazze mediatiche o da quelle digitali, in cui tutti possono essere amici di tutti, ma in cui nessuno distingue più tra il vero e il falso, tra il corpo reale e quello virtuale, tra le esigenze effettive e quelle fittizie. È un fenomeno complessivo che ci spinge tutte e tutti ad un globale consumismo. Consumiamo le notizie, consumiamo i beni, pensiamo di avere esigenze inderogabili che in altri tempi non avremmo nemmeno sospettato. Consumiamo le nostre vite per interposte persone e per atti interposti, nell'illusione di viverle davvero, accettando supinamente il fatto che si è vivi solo se ci si trova, anche solo per un momento, sul palcoscenico di un programma televisivo o sulla fotografia spesso mal riuscita di un quotidiano, di un settimanale o di un social network. È un'illusione che ci spinge a credere di esserci distinte o distinti proprio nel momento in cui invece siamo più uguali a tutti gli altri e a tutte le altre. Forse è proprio questo alla fine che tutti e tutte cercano, una conferma alla propria esistenza che passi attraverso lo specchio della uniformità. Altrimenti, perché mai durante l'arresto del ragazzo che con un pugno ha ucciso una giovane infermiera romena, la folla gridava «Alessio, uno di noi, nonno di noi». Noi non vogliamo avere niente a che fare con persone violente di questo genere. Ecco, noi vogliamo essere uno di noi e con questo dovremo fare i conti. Noi non vogliamo essere quell'uno di noi e con questo dovremo fare i conti. E a questo punto chiudiamo questa breve disamina sui media. Esatto. Mettiamo un bel brano musicale. E tutti i brani sono stati scelti da Caterina, sì, a cui faccio sempre i complimenti. Risalta tutto, zitta, non dire niente. Anche perché io avrei ovviamente scelto altri tipi di canzoni. Sapete quanto sono vetero. E il pezzo è di Dolce Nera, Resta sì, come sei. Credo che ci sia un altro problema. Sì, che non si prende più le canzoni il computer. Non so bene che gli è successo. Abbiate pietà un attimo, vediamo se riesco portandone un'altra. Vediamo un attimo, se gli piace questa. Questa no, questa no, questa no. Non gli piacciono le canzoni? Bene, non so come andare avanti. Beh, possiamo cantare noi Resta come sei, ma la vedo difficile. Di no, se no risalta tutto un'altra volta. Sto sudando. Facciamo cantare Lucilla. E direi che possiamo leggere gli sms al posto del brano, grazie, che è musicale, sì, perché esatto, noi siamo creative. Occupiamo un po' il tempo così, adesso mi si rompe anche il telefonino. Dunque, allora, sono arrivati due messaggi carinissimi. Allora, uno di solidarietà iniziale diceva che praticamente, allora, ciao ragazze, come dimenticare il plastico di Vespa che apriva la porta del garage, addirittura eccitato, e l'hanno firmato Vane e Lu, che ringraziamo tantissimo. Grazie, e poi grazie, nel ragazze. Momento del bisogno queste due nostre amiche hanno scritto: pensavamo di avervi perso, meno male, noi pensavamo di aver rotto tutto, quindi non si sapeva chi era più agitata, se voi o noi. E non lo so, adesso però un po' di musica ci vuole, quindi continuiamo a mandare Enya che stava nel sottofondo, che okay? Insomma c'è il suo perché, esatto. Comunque, visto che dobbiamo occupare un po' di tempo per fare un minimo di pausa, leggo l'altro messaggio che ci hanno mandato le due amiche, che dice: povero Tiziano Ferro, il clamore del suo coming out è appena durato un giorno, a Vetrana gli ha rubato la scena. Comunque, se possiamo ricordarvi qualcosa a proposito della chiosa del nostro pezzo, al quale ha lavorato alla cremente Rosina, che ringraziamo assolutamente, sì. grazie di cuore. E The Voice. Vorremmo dirvi che uno spazio di socialità qui a Roma si è aperto tutti i venerdì dalle 21 in poi. Wow. Se avete voglia, ci sono un gruppo di 21 donne che tengono aperto questo spazio alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B, e si fa musica e si chiacchiera insieme. Qualche volta c'è qualche evento, e se no, insomma, siamo insieme, va bene? Quindi vi aspettiamo là, e dalle 21 in poi, sì, non dalle 20... prima, pietà, che dobbiamo sistemare. E quindi niente, è uno spazio appunto aperto in cui si può stare insieme, chiacchierare, e quindi avere anche, ritrovare anche un modo per stare insieme, che non è appunto quello intorno a una televisione che blatera su. Anche perché abbiamo visto come si comportano le televisioni, per cui no. E poi volevo dire, non, mi ero distratta perché stavo litigando con il computer, ma proprio non ne vuole sentire, per cui canzone stasera solo Enya fino alla fine. Non so se riusciremo a mandare nausea. Allora, volevo semplicemente aggiungere una cosa che non ho sentito se l'avevi detta o no, è che a Roma non ci sono altri locali per sole donne, o ce n'è stato aperto uno al momento? Mi sembra che non ce ne siano altri. Comunque, io a scanso di equivoci, così con un beep prima, con i computer che non funzionano, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista, Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra mail, che è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web www.clrbp.it, nonché il numero per gli SMS 339-853-6270, che resterà attivo fino alla fine della nostra trasmissione. Noi dovevamo finire alle 10, praticamente 2 minuti fa, ma ci rubiamo 10 minuti perché abbiamo delle cose da leggere che leggeremo velocissimamente. Vi volevo dire che finora Caterina ha dato i numeri e li ha dati benissimo. Meno male. Allora, le notizie che volevamo leggere, che ci tenevamo, erano sempre comunque in tema rispetto alla nostra trasmissione. Infatti continuiamo a parlare di notizie veicolate, scelte e selezionate per noi dai poteri occulti. Quindi diamo lettura di un comunicato che ci ha girato l'UDI e che ha la data del 12 novembre 2010 dal titolo Belle e Brave. Vado a leggere. Belle le tenniste, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Sara Errani, che hanno conquistato la Federation Cup in America. Belle le fiorettiste, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Valentina Vezzali, che rispettivamente conquistano l'oro, l'argento e il bronzo ai campionati mondiali di fioretto svolti a Parigi. Belle e brave. Eppure pochi tamburi rullano per loro, pochi articoli sui giornali. Le donne che fanno notizia sono altre. Il femminile che entra nella nostra notizia è un altro. Se è una scelta, è una scelta precisa. Se non è una scelta, è comunque il segno di qualcosa che non va, di uno sguardo che si ostina a non voler comprendere. Noi vogliamo parlare di Francesca, Flavia, Roberta e Sara, non solo per celebrare una vittoria, ma per sottolineare quello che è avvenuto prima, quel loro essere unite in una amichevole amicizia irriducibile. Noi vogliamo ricordare l'impegno di Arianna, Elisa e Valentina per riconoscere nei loro gesti e nella loro fatica quella di migliaia di donne che sanno perfettamente di muoversi in un mondo dove i codici sono dettati da altri, molto prima. Eppure, proprio come loro, noi sappiamo che insieme si può. UDI, Unione Donne in Italia. E altre due parole che ci tenevo a dire. E che oltre a questo comunicato ci piace ricordare anche che l'UDI ha organizzato un concorso presentato il 26 maggio scorso con bando di partecipazione per il premio Immagini Amiche, che si ispira alla risoluzione del Parlamento europeo votata il 3 settembre del 2008, che vuole garantire la parità fra donne e uomini osservando l'impatto del marketing e della pubblicità. Questo concorso intende valorizzare una comunicazione per immagini che non strumentalizzi le donne, non utilizzi stereotipi e al tempo stesso veicoli messaggi creativi e propositivi. Questo premio è nato all'interno della campagna Immagini Amiche, con la quale le donne dell'UDI avevano dato vita ad una forma di contestazione dal titolo «Se la pubblicità ti offende, non comprare». E che aveva un duplice scopo: da una parte quello di evidenziare la nostra possibilità di opporci non comprando alcuni determinati prodotti che palesemente ledevano l'immagine femminile, e dall'altra suggeriva addirittura incentivava l'inoltro di segnalazioni all'AIP, cioè l'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria, di tutte quelle pubblicità che offendevano le donne. Allora, nel corso di questi ultimi mesi moltissime sono state le segnalazioni inviate ed il comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria in moltissimi casi ha evidenziato la violazione di articoli del codice di autodisciplina. A seguito di questa rilevanza deliberava una ingiunzione di desistenza e la pubblicità veniva ritirata. Per capirci meglio, ad esempio, l'articolo 8 parla di violenza, volgarità e indecenza e l'articolo 10 cita convinzioni morali, civili, religiose e dignità della donna. Ora, la violazione di questi ed altri articoli fa sì che la pubblicità in oggetto venga dichiarata non conforme al codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e quindi non può più essere diffusa. Questa è un'iniziativa molto importante che vede noi del CLR direttamente coinvolte, perché facciamo parte del comitato d'onore di questo premio. E comunque, se l'argomento vi interessa, vi potete collegare al sito dell'UDI, dove ci sono tutte le specifiche del caso e i riferimenti, dove andare a vedere tutte le iniziative fin qui fatte e altro. A questo punto noi dovevamo mettere una bellissima canzone delle Sapphire che si intitolava Because of You, cioè che non colpa mettiamo tua, più. Ecco, però non la mettiamo più. Compenso però, ecco, Kate, io una bella notizia ce l'ho, perché no, ci hanno riscritto quelle amiche di prima che leggo. Legge. Giorno 3 dicembre verremo. Wow. Da Catania con amore. Grande. E quindi noi va e Lu vi aspetteremo, insomma. Naturalmente, certo. Naturalmente. E niente, quindi rispetto alle notizie che ha detto Caterina è importantissimo, ricordate che è Unione Donne in Italia, quindi quando vorrete andare a vedere questa nuova campagna che sta facendo l'Unione Donne in Italia potete andarla a vedere e potete segnalare alla stessa Unione Donne in Italia quelle immagini che disturbano attraverso la pubblicità, che disturbano e ledono la dignità femminile e quindi decidere di partecipare attivamente. Questa era la partecipazione di cui parlavamo noi nel nostro, esatto. Nella nostra. E poi se avete la capacità di fare degli spot che non offendano, c'è anche questo concorso, insomma è aperto. Se andate sul sito e vi volete cimentare in questa cosa è carina, è una bella idea, insomma. Ambo le cose, potete denunciare le pubblicità lesive oppure potete partecipare al concorso e farne alcune invece che portino alle donne la giustizia del loro essere. Ok, va bene. Noi, arrivederci. Con tutte le problematiche di oggi, speriamo che la trasmissione sia stata compresa, di essere state sufficientemente chiare. E non lo nomineremo. No, più. Assolutamente no, lui, per carità di Dio. Ringraziamo da Catania le nostre amiche, le aspettiamo volentierissimo. Per il 3? Il 3. E la sigla spero che parta, se no cantiamo noi, fa niente. Ok, ciao a ciao. Tutte. Ciao. Ciao. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got